Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Festeggia il suo compleanno. Un giorno Tommy e Annika trovarono una lettera nella cassetta della posta. Per Tommy e Annika, c'era scritto sulla busta. Dentro la busta invece c'era un cartoncino che recitava: Tommy e Annika devono venire domani pomeriggio da Pippi per il suo compleanno. Abiti quelli che volete. Tommy e Annika ne furono talmente tanto felici che cominciarono a saltare e a ballare. Capivano benissimo quello che voleva dire il cartoncino, per quanto fosse scritto in maniera così strana. Pippi aveva sudato 7 camicie. Se anche quella volta a scuola non aveva riconosciuto la lettera I, la verità era che un pochino sapeva scrivere. Al tempo in cui navigava i 7 mari, ogni tanto di sera un marinaio di suo padre sedeva con lei a poppa e cercava di insegnarle qualcosa. Purtroppo Pippi non era una scolara molto diligente e di punto in bianco diceva: «No, Fridolf!» Il marinaio si chiamava Fridolf. «No, Fridolf, freghiamocene di questa roba. Preferisco arrampicarmi sull'albero maestro per vedere che tempo farà domani». Perciò non c'è da stupirsi se faceva una gran fatica a scrivere. Ci aveva messo una notte intera a scribacchiare quel cartoncino d'invito e all'alba, quando le stelle cominciavano a impallidire sopra il tetto di Villa Villa Colle, si era avviata verso la casa di Tommy e Annika per imbucare la lettera nella loro cassetta. Appena tornati da scuola, Tommy e Annika cominciarono a farsi belli per la festa. Annika pregò la mamma di arricciarle i capelli. La mamma non solo glieli arricciò, ma le annodò anche fra i riccioli un grande nastro di seta rosa. Quanto a Tommy, si bagnò i capelli prima di pettinarli perché gli rimanessero lisci. A lui non piaceva per niente averli ricci. Annika poi avrebbe desiderato mettersi il suo vestito più bello, ma la mamma disse che non ne valeva la pena perché tanto non tornava mai proprio pulita dopo essere stata da Pippi. Così Annika dovette accontentarsi del secondo vestito più bello. Per Tommy non aveva una grande importanza l'abito da indossare, gli bastava solo essere un po' elegante. Naturalmente avevano comprato un regalo per Pippi. Avevano preso i soldi dai loro porcellini salvadanaio e, tornando da scuola, avevano fatto un salto al negozio di giocattoli nella Via Grande e avevano comprato un meraviglioso... Beh, per il momento questo rimarrà un segreto. Ora, il regalo era avvolto con della carta verde e legato con molto nastro, e quando alla fine i due bambini furono pronti, Tommy prese il pacco e lui e Annika si incamminarono, seguiti dalle calorose raccomandazioni della mamma di badare ai vestiti. Avevano stabilito che anche Annika avrebbe dovuto portare il pacco per un tratto di strada e che al momento della consegna l'avrebbero tenuto in mano tutti e due. Era novembre inoltrato e il crepuscolo calava presto. Tommy e Annika entrarono dal cancello di Villa Villa Colle tenendosi stretti per mano perché il giardino di Pippi era buio e i vecchi alberi che stavano perdendo le loro ultime foglie stormivano tristemente. «È proprio autunno», disse Tommy. Era ancora più piacevole vedere le finestre illuminate di Villa Villa Colle e sapere che si stava andando a una festa di compleanno. Di solito Tommy e Annika entravano dalla porta della cucina, ma quella volta usarono l'ingresso principale. La veranda era deserta, del cavallo non c'era traccia. Tommy bussò educatamente alla porta e dall'interno una voce cupa rispose: «Chi bussa al mio portone in questa notte scura? Un fantasma burlone o un topo a far paura?» «No, Pippi, siamo noi!» strillò Annika. «Apri!» Allora Pippi aprì. «Oh, Pippi, perché parlavi di un fantasma? Che spavento!» disse Annika, dimenticandosi del tutto di farle gli auguri. Pippi rise di cuore e spalancò la porta della cucina. Che meraviglia entrare in un luogo illuminato e caldo! La festa si sarebbe svolta lì, perché era il posto più piacevole della casa. C'erano infatti solo altre due stanze al pian terreno. Una era il salotto, e lì c'era un mobile solo, l'altra era la camera da letto di Pippi. La cucina invece era grande e spaziosa, e Pippi l'aveva messa così bene in ordine. Per terra aveva steso dei tappeti, e sulla tavola una tovaglia nuova cucita da lei stessa. Veramente i fiori che vi aveva ricamato erano un po' strani, ma Pippi sosteneva che quel tipo di fiori cresceva in Indocina, e allora andava tutto bene. Le tende erano tirate, e il fuoco scoppiettava nel camino. Sul cassone della legna era seduto il signor Nilsson e batteva insieme due coperchi, mentre in un angolo c'era il cavallo. Anche lui era stato invitato alla festa, naturalmente. Allora Tommy e Annika si ricordarono che dovevano ancora fare gli auguri a Pippi. Tommy si inchinò e Annika fece una riverenza. Poi consegnarono a Pippi il pacco verde dicendo: «Ti porgiamo i nostri sinceri auguri di buon compleanno». Pippi ringraziò e scartò il pacchetto con impazienza finché apparve un carrion a manovella. Pippi impazzì di gioia. Fece una carezza a Tommy e una carezza ad Annika e una carezza al carrion. Poi girò e girò la manovella facendo risuonare un gran plin plon che probabilmente voleva assomigliare a «Oh mio caro Augustin». Pippi girava e girava la manovella del carrion e pareva aver dimenticato tutto il resto, ma all'improvviso si ricordò di qualcosa. «Ma io devo ancora darvi i vostri regali di compleanno», disse. «Ma non è mica il nostro compleanno», dissero Tommy e Annika. Pippi li guardò stupita. «Però è il mio compleanno, per quel che ne so», disse. «E allora potrò fare dei regali di compleanno anche a voi, no? Oppure c'è scritto in qualcuno dei vostri libri scolastici che è proibito? È per via delle mortificazioni che non si può?» «Ma no, certo che si può», disse Tommy. «Però non si usa, ma per conto mio mi fa molto piacere ricevere un regalo. Anche a me», aggiunse Annika. Allora Pippi corse in salotto a prendere due pacchetti che stavano sul comò. Quando Tommy aprì il suo, vi trovò una specie di piccolo flauto d'avorio, mentre in quello di Annika c'era una bella spilla a forma di farfalla. Le ali della farfalla erano tempestate di pietre rosse, azzurre e verdi. Ora che tutti avevano ricevuto i loro regali, era ora di mettersi a tavola, sulla quale troneggiava una immensa quantità di dolci e girandole alla cannella. La forma dei dolci era piuttosto strana, ma Pippi spiegò che in Cina li facevano così. Poi Pippi versò nelle tazze della cioccolata con la panna e la festa ebbe inizio. Il signor Nilsson si rifiutò di servirsi delle sedie e si sedette direttamente sul tavolo. Rifiutò anche la cioccolata con la panna, ma quando Pippi gli versò dell'acqua nella tazza la afferrò con due mani e beve. Annika, Tommy e Pippi mangiarono di gusto. E Annika dichiarò che se era vero che in Cina si facevano dolci così, da grande ci si sarebbe trasferita. Quando il signor Nilsson ebbe svuotato la sua tazza, la capovolse e se la mise in testa. A quella vista Pippi fece lo stesso, ma siccome non aveva finito tutta la sua cioccolata, un rigagnoletto le scese dalla fronte per poi proseguire lungo il naso, poi però Pippi tirò fuori la lingua e lo bloccò. «Non bisogna sprecare nulla», disse. Tommy e Annika leccarono alla perfezione le loro tazze prima di mettersele in testa. Quando tutti furono sazi e soddisfatti, Pippi afferrò con decisione i quattro angoli della tovaglia e la sollevò, di modo che le tazze e i piatti dei dolci si accatastarono come in un sacco. Poi Pippi infilò il fagotto nel cassone della legna. «Mi piace fare un po' d'ordine subito dopo mangiato», disse. Poi fu l'ora di mettersi a giocare. Pippi propose di fare un gioco che si chiamava «Non toccare il pavimento». Era molto semplice. Consisteva nel fare il giro della cucina senza toccare il pavimento coi piedi nemmeno una volta. Pippi cominciò facendo tutto il giro in un batter d'occhio, ma anche Tommy e Annika se la cavarono bene. Si cominciava dall'acquaio e da qui, se si stendeva al massimo la gamba, si riusciva a raggiungere la cucina economica, e da lì al cassone della legna, e dal cassone all'attaccapanni. Poi si scendeva sul tavolo e da lì, passando su due sedie, si arrivava all'armadio d'angolo. Tra l'armadio d'angolo e l'acquaio c'era una distanza di parecchi metri. Ma lì, fortunatamente, si trovava il cavallo, e se ci si arrampicava per la coda e poi ci si lasciava scivolare dal collo e poi si faceva uno scatto al momento giusto, si andava a cadere proprio sull'acquaio. Dopo aver giocato per un pezzo e dopo che il vestito di Annika fu passato dall'essere il secondo più bello all'essere al quarto posto e Tommy fu diventato nero come uno spazzacamino, decisero di inventarsi qualcos'altro. «Se andassimo in soffitta a salutare i fantasmi?» propose Pippi. Annika emise un gemito. Ci sono i fantasmi in soffitta?» balbettò. «E come? A bizzeffe!» disse Pippi. «È tutto un brulicare di fantasmi e spettri di tutti i tipi lassù. Praticamente ci si inciampa. Ci andiamo?» ansimò Annika guardando Pippi con aria di rimprovero. La mamma dice che non esistono né spettri né fantasmi, disse Tommy spavaldo. Credo bene, disse Pippi. Non ce ne sono da nessuna parte tranne che qui, perché tutti quelli che esistono abitano nella mia soffitta. E pregarli di traslocare non serve a niente, però non sono pericolosi. Danno soltanto pizzicotti sulle braccia talmente forti da lasciare i lividi. E poi ululano e giocano a birilli con le proprie teste. Giocano a birilli con le proprie teste, mormorò Annika. Sì, proprio così, confermò Pippi. Venite che andiamo su a chiacchierare un po' con loro. Io sono bravissima a giocare a birilli. Tommy non voleva mostrare di avere paura e oltretutto aveva una gran voglia di vedere un fantasma. Così avrebbe avuto qualcosa di eccezionale da raccontare ai suoi compagni di scuola. Inoltre lo consolava il pensiero che i fantasmi non avrebbero osato attaccare Pippi. Decise così di andare. La povera Annika invece non voleva saperne, ma poi le venne in mente che poteva anche darsi che un piccolissimo fantasma scendesse da lei mentre era sola in cucina e questo bastò a convincerla, perché preferiva essere in mezzo a migliaia di fantasmi in compagnia di Pippi e Tommy piuttosto che sola in cucina con il più piccolo bambino fantasma. Pippi era in testa e aprì la porta che conduceva in soffitta. Era buio pesto. Salendo le scale, Tommy si aggrappava a Pippi e Annika si aggrappava ancora più forte a Tommy. I gradini scricchiolavano e cigolavano a ogni passo. Tommy cominciò a chiedersi se sarebbe stato meglio lasciar perdere, quanto ad Annika non aveva alcun dubbio sull'argomento. Alla fine la scala terminò e si ritrovarono in soffitta. Anche qui l'oscurità era completa, a eccezione di un sottile raggio di luna che cadeva obliquo sul pavimento. In tutti i cantucci si sentivano sospiri e cigolii per via del vento che passava attraverso le fessure. «Ehi là! Ciao fantasmi!» gridò Pippi. Ma se anche ce n'era qualcuno, nessuno rispose. Proprio come pensavo, disse Pippi. Sono andati alla riunione del comitato direttivo dell'Associazione Spettri e Fantasmi. Annika si lasciò sfuggire un sospiro di sollievo e in cuor suo pregò che la riunione durasse a lungo. Ma proprio in quell'istante si udì uno spaventoso versaccio provenire da un angolo remoto della soffitta. Cvit! Faceva. E un attimo dopo, nella penombra, Tommy vide qualcosa venirgli incontro frusciando. Lui sentì come una ventata sulla fronte, poi vide una sagoma nera sparire attraverso una finestrella spalancata. «Un fantasma! Un fantasma!» gridò a perdifiato. E Annika gli fece eco. «Poveretto, questo arriva in ritardo alla riunione!» disse Pippi. «Se poi si trattava davvero di un fantasma e non piuttosto di una civetta, del resto i fantasmi non esistono», continuò poi. «Quindi sono sempre più convinta che si trattasse di una civetta, e se qualcuno osa dire che i fantasmi esistono, gli storcerò il naso». «Ma l'hai detto tu stessa», osservò Annika. «Ah sì, davvero?» disse Pippi. «Allora mi storcerò il naso da sola». E poi afferrò saldamente il proprio naso e lo storse. Questo tranquillizzò un pochino Tommy e Annika. Presero addirittura tanto coraggio da osare avvicinarsi alla finestrella per ammirare il giardino dall'alto. Grandi nuvole nere vagavano per il cielo, facendo del loro meglio per oscurare la luna. Gli alberi stormivano. Tommy e Annika si voltarono e proprio allora, che spavento, videro una sagoma bianca che veniva loro incontro. «Uno spettro!» gridò Tommy selvaggiamente. Annika aveva tanta paura da non riuscire nemmeno a gridare. La figura si avvicinava sempre più e Tommy e Annika allora si abbracciarono e chiusero gli occhi. Fu a questo punto che udirono lo spettro dire: «Guardate cosa ho trovato, la camicia da notte di papà in un vecchio baule da marinaio. Se l'accorcio un po' posso anche usarla». E Pippi si avvicinò con la camicia che le fluttuava tra le gambe. «Oh, Pippi, stavo per morire dal terrore!» disse Annika. «Ma dai, le camicie da notte non sono mica pericolose!» la tranquillizzò Pippi. «Mordono solo per legittima difesa!» Pippi decise di passare in rassegna il contenuto della cassa da marinaio. L'avvicinò alla finestra e aprì il coperchio, così che l'interno venisse illuminato dalla flebile luce della luna. Prima apparve uno strato di vecchi abiti che Pippi rovesciò sul pavimento, poi un binocolo, un paio di libri antichi, tre pistole, uno spadino e un sacco di monete d'oro. «Ti deli pomme, pittili dei!» esclamò Pippi soddisfatta della scoperta. «Che bellezza!» disse Tommy. Pippi raccolse il tutto nella sua nuova camicia da notte e poi i tre bambini ritornarono in cucina. Annika fu molto contenta di abbandonare la soffitta. «Tenete le armi fuori dalla portata dei bambini!» disse Pippi brandendo una pistola in ogni pugno. «Potrebbe anche succedere una disgrazia», aggiunse premendo contemporaneamente i due grilletti. «Come fracasso non c'è male», constatò e guardò il soffitto dove erano visibili i due fori prodotti dai proiettili. «Chissà», disse in tono speranzoso, «forse i proiettili hanno attraversato il soffitto e colpito un fantasma alle gambe, così impareranno a pensarci prima di spaventare i poveri bambini innocenti, perché anche se non esistono, questa non è certo una buona ragione per spaventare a morte la gente, mi sembra. A proposito, volete una pistola per uno?» chiese. Tommy ne fu entusiasta, e anche ad Annika sarebbe piaciuto possedere una pistola, a patto però che fosse scarica. «Adesso possiamo formare una banda di briganti», disse Pippi portando il binocolo agli occhi. «Con questo mi sa che arrivo quasi a vedere le pulci del Sud America», proseguì. «Ci sarà utile per la nostra banda». In quel momento bussarono alla porta. Era il padre di Tommy e Annika che veniva a prendere i bambini per riportarli a casa. Disse che l'ora di andare a dormire era già passata da un pezzo. Tommy e Annika ringraziarono e dissero in fretta addio a Pippi, non senza aver prima riunito le loro cose, il flauto, la spilla e le pistole. Pippi accompagnò i suoi ospiti fin sulla veranda e li guardò allontanarsi sul vialetto. Si voltarono e le fecero un cenno di saluto. La luce della casa la illuminava. Se ne stava lì, con le sue rigide trecce rosse, con addosso la camicia da notte di suo padre che le fluttuava tra le gambe. In una mano teneva la pistola e nell'altra lo spadino, e faceva il present ad arm. Quando Tommy e Annika e il loro papà arrivarono al cancello, udirono Pippi urlare qualcosa e si fermarono ad ascoltare. Nonostante il fruscio degli alberi, riuscirono a sentirla. «Da grande farò il pirata!» strillava. «E voi?» Pippi abita ancora a Villa Villacolle. Se un viaggiatore si fosse trovato a passare per la piccola, piccola città e magari gli fosse capitato per sbaglio di spingersi un po' troppo lontano verso la periferia, quel viaggiatore avrebbe visto Villa Villacolle. Non che ci fosse poi molto da vedere, dato che si trattava di una vecchia villetta un po' pericolante con intorno un vecchio giardino trasandato, ma forse il viaggiatore si sarebbe fermato lo stesso a domandarsi chi ci abitava. Tutti gli abitanti della cittadina naturalmente lo sapevano, così come sapevano perché c'era un cavallo sulla veranda, ma qualcuno che veniva da fuori non poteva certo saperlo e quindi sarebbe di sicuro rimasto sorpreso. Tanto più se fosse passato di lì la sera tardi, quasi col buio, e avesse, nonostante l'ora, scorto una ragazzina in giardino che sembrava non avere alcuna intenzione di andare a letto. Di certo avrebbe pensato, come mai la mamma di questa bambina non la manda a letto? A quest'ora tutti gli altri bambini dormono già. Perché come avrebbe potuto sapere che quella bambina non aveva la mamma? E se per questo non aveva neanche un papà, perlomeno non uno che fosse a casa? Difatti, quella bambina viveva a Villa Villacolle tutta sola. Beh, magari non proprio sola sola. Dopotutto il cavallo viveva sulla veranda. E poi la bambina aveva anche una scimmietta di nome signor Nilsson. Ma di tutto questo il viaggiatore non ne avrebbe avuta la minima idea. Se la ragazzina si fosse avvicinata al cancello, e lo avrebbe fatto di sicuro perché le piaceva parlare con la gente, il forestiero avrebbe potuto osservarla meglio e non avrebbe potuto fare a meno di pensare «Questa è la bambina più lentigginosa e con i capelli più rossi che io abbia mai visto». Poi forse avrebbe pensato anche «Beh, però avere le lentiggini e i capelli rossi non è male, soprattutto se si è vivaci e allegri come questa ragazzina». Magari avrebbe anche voluto sapere come si chiamava quella bambina dai capelli rossi che se ne andava in giro tutta sola al crepuscolo e se si trovava accanto al cancello le avrebbe potuto semplicemente chiedere «Come ti chiami?». E di sicuro avrebbe ricevuto una risposta pronunciata con voce allegra e felice. «Mi chiamo Pippilotta Pesanella Tapparella Succiamenta, figlia del capitano Efraim Calzelunghe, un tempo terrore degli oceani, ora re dei mari del sud, ma tutti mi chiamano Pippi». Eh già, quella ragazzina si chiamava Pippi Calzelunghe e se diceva che suo padre era un re dei mari del sud è perché ci credeva fermamente. Le cose erano andate così. Un giorno suo padre, mentre navigava con lei, era volato in mare ed era scomparso. Dato che suo padre era piuttosto grasso, Pippi non aveva mai creduto che fosse annegato e da lì a credere che fosse approdato su un'isola e che fosse diventato il re dei Coracoriani, la via era breve e infatti Pippi credeva che le cose fossero andate proprio così. È possibile che questo forestiero, se aveva tempo e non doveva riprendere il treno quella sera stessa, si mettesse a parlare un po' più a lungo con Pippi, scoprendo che viveva a Villa Villacolle tutta sola, a parte un cavallo e una scimmia, e se fosse stato di buon cuore, non avrebbe potuto fare a meno di pensare di che vivrà questa povera bambina. Ma non c'era motivo di preoccuparsi, perché Pippi diceva sempre «sono ricca come un troll», ed era vero. Infatti, aveva una valigia piena di monete d'oro che le aveva lasciato suo padre. Quindi il viaggiatore non doveva pensare che le mancasse qualcosa, se la cavava benissimo anche senza mamma e papà. Beh, naturalmente non c'era nessuno che potesse dirle quando doveva andare a letto la sera, ma Pippi aveva trovato una soluzione, se lo diceva da sola. A volte non se lo diceva prima delle 10 di sera, perché non aveva mai veramente creduto che i bambini dovessero per forza andare a dormire alle 7, e perché era proprio a quell'ora che ci si divertiva di più. Quindi il viaggiatore forestiero non doveva stupirsi nel vedere Pippi andarsene in giro per il giardino, anche se il sole era già tramontato e cominciava a far fresco, e Tommy e Annika erano a letto da un pezzo. Chi erano Tommy e Annika? In effetti il viaggiatore non poteva sapere neanche questo. Tommy e Annika erano i compagni di gioco di Pippi e vivevano nella casa accanto a Villa Villacolle. Peccato, se solo fosse arrivato un po' prima il forestiero avrebbe visto Tommy e Annika. Erano due bambini proprio bravi e carini. E di sicuro il viaggiatore li avrebbe trovati da Pippi, su questo non ci piove, perché correvano da lei ogni giorno e stavano sempre lì tranne quando dormivano, mangiavano o andavano a scuola. E naturalmente a quell'ora dormivano, perché Tommy e Annika avevano sia un papà che una mamma, entrambi convinti che tutti i bambini dovessero andare a dormire alle 7. Se poi questo viaggiatore avesse avuto proprio tanto tempo a disposizione, magari sarebbe rimasto ancora un po' dopo che Pippi gli aveva augurato la buonanotte e si era allontanata dal cancello. Così, solo per vedere che cosa faceva quando era da sola e se davvero non aveva intenzione di andare a letto di lì a poco. Poteva sempre piazzarsi dietro al pilastro del cancello e dare una sbirciatina. E chissà, magari Pippi sarebbe andata sulla veranda, come a volte faceva la sera quando aveva voglia di farsi una cavalcata. Avrebbe sollevato il cavallo sulle sue forti braccia e l'avrebbe portato fuori in giardino. Allora il forestiero viaggiatore si sarebbe di sicuro stropicciato gli occhi, domandandosi se stesse sognando. «Che razza di bambina è mai questa?» avrebbe forse detto tra sé e sé dietro al pilastro del cancello. «Riesce a sollevare il cavallo! È davvero la bambina più straordinaria che io abbia mai visto!» E avrebbe avuto ragione. Pippi era la bambina più straordinaria del mondo, o perlomeno di quella città. Forse in altri posti c'erano ragazzini più straordinari di lei, ma in quella cittadina non c'era nessuno come Pippi Calzelunghe. E da nessuna parte, né in quella città, né in altre parti del globo terrestre, esisteva qualcuno forte quanto lei. Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.